Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Il Sud continua sempre di più a dare fermento alle proprie iniziative antimafia. Non dico che la società civile sia matura, questo non lo è ancora purtroppo in tutto il paese però, ma i giovani, le forze nuove, sulle quali dobbiamo ovviamente fare leva per un miglioramento nel nostro paese, si muovono sempre di più, dalla Calabria alla Campania, dalla Puglia alla Basilicata, senza contare poi il nord, dove la pervasività delle mafie ormai è un dato di fatto e anche qui sono molti. Le storie di coloro quali resistono noi ne abbiamo raccontate, anzi, a proposito, io vi ricordo la mail sottotiro@radio24.it, segnalateci le iniziative, da chiunque provengano, di storie interessanti di resistenza alle mafie o anche storie invece di denuncia di azioni mafiose. Noi siamo qui per raccontarle. Allora, a Napoli, alcuni mesi fa, è nata un'associazione che si chiama Associazione Magna Grecia. Le persone che ne fanno parte sono persone che sono impegnate politicamente e anche trasversalmente, ma a me, come sapete, della politica non me ne frega assolutamente nulla se non quando fa i fatti. Questa associazione ovviamente ha cominciato sul territorio a diffondere il verbo della legalità. Più ce ne sono e meglio è. E noi abbiamo l'anima, anzi le due anime di questa associazione con noi collegate telefonicamente. Giovanni De Stefano, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. E Paolo Trapani, collega giornalista. Buongiorno Paolo. Buongiorno Roberto, buongiorno a tutti. Allora, Giovanni De Stefano, partiamo da lei. Lei ha avuto nel passato anche il coraggio di denunciare Clan della Camorra, che addirittura volevano aprire uno sportello anti-racket. Figuriamoci quindi il modo in cui si insinuano le mafie, segnatamente in questo caso la Camorra, all'interno di ogni ganglo vitale della società. Oggi lei che cosa fa? Noi dopo un anno ci siamo istituiti dal notaio e abbiamo iniziato anche a fare già attività non solo sul nostro territorio della località di Cercola, che in provincia di Napoli, ma esattamente una quindicina di giorni fa abbiamo fatto la presentazione di un libro che si chiama Fetali di Vita, che raccontava la storia di Don Peppino Diana. Chi era Don Peppino Diana? Era un sacerdote nel comune di Casal di Principe, che si trova nella provincia di Caserta, dove per anni ha combattuto il fenomeno della camorra, della criminalità organizzata. Certo, certo, certo. Ma infatti Don Peppino Diana è un martire, un simbolo. Martire, sì, della lotta alla camorra. Assolutamente sì, anche se c'è stato qualcuno che ha cercato di infangarne. Dopo hanno infangato, che diceva che lui era una persona, anche lui collegata sostanzialmente ai clan, ma tutto questo non è stato mai vero, anzi lui assolutamente in prima persona nella sua parrocchia che si trovava in casa, nel comune di Casal di Principe, anzi adottava bambini minori a rischio proprio per evitare di farli entrare nella morte. E per questo è stato ucciso. Sì. Paolo, quanta gente riuscite a mobilitare con queste vostre prime iniziative? Ma guarda, no Roberto, noi abbiamo scontato, diciamo, una prima iniziale difficoltà a giugno, quando ci siamo sentiti anche in collegamento con te in occasione della conferenza di presentazione. Infatti Giovanni, non a caso, che viene da un percorso travagliato, difficile, rimase molto deluso della scarsa presenza in sala quando, diciamo, c'è stato il battesimo. Però la sua questa seconda manifestazione di cui lui parlava poco fa a proposito del libro su Don Peppino Diana ci ha subito rincuorato, perché la sala era stracolma di gente, segno che quando poi si inizia a praticare anche costantemente sul territorio quello che è il verbo, come dici tu, della legalità, le cose per si bene, insomma, certo, corrono, ascoltano, partecipano, si mobilitano. Certo, del resto De Stefano, io capisco l'amarezza che si può avere nel momento in cui non si percepisce un'attenzione, una sensibilità, però credo, De Stefano, che nel vostro territorio, come ovunque, sia importante anche smuovere poche coscienze, perché poi è come un seme, no, che dà frutti nel tempo, o sbaglio? Il problema è che qui in Campania, incominciando dai sindaci di tutte le zone vesuviane, qualcuno escluso, dal presidente del consiglio, dal presidente della regione Campania, presidente della provincia e sino di Napoli, tutti vogliono lavarsi la bocca di legalità. E poi sostanzialmente quando ci sono iniziative di questo genere, i primi ad essere assenti sono loro, ma l'importante è che sono venuti giovani, che hanno aderito alle scuole, le varie associazioni, che poi le istituzioni sono state assenti un'altra volta, sinceramente ci fa capire che secondo me vogliono qualcosa in più, e noi questo qualcosa in più non lo possiamo dargli, quindi non possono venire bravi, da lui, bravi, devono andare altrove. Bravi, bravo, bravo De Stefano. E del resto la politica parolaia, Paolo Trapani, noi la conosciamo bene. Senti Paolo, avete un sito internet, un telefono, uno spazio in cui chi vuole può raggiungervi dalla Campania e da Napoli? C'è un profilo Facebook con il nome dell'associazione, il sito è in via di costruzione. Benissimo. Lo registreremo a breve. Bene, allora lo ricordiamo in maniera tale che chiunque voglia possa collegarsi e seguire quello che fanno questa associazione e anche ovviamente tutte le altre associazioni impegnate sul territorio. Grazie a Paolo Trapani e a Giovanni De Stefano per il loro intervento. Ringrazio Peter Bescapin in regia e Laura Fagini in redazione, e Roberto Carullo vi augura una buona giornata.